Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, le feste sono passate, io sono qui con voi. Le abbiamo passate tra pranzi, brindisi, amici e parenti. Ora è tempo, cari amici, di rimetterci in cammino. Ci aspetta l'ultima settimana dell'anno. Ci sono ancora tante cose da fare, da chiudere, da concludere, da valutare, da archiviare. Le chiusure, i bilanci, almeno per me, sono sempre un po' difficili e impegnativi, ma mi dico, dato che sono inevitabili, tanto vale affrontarli di buon passo. Niente voti oggi, si passeggia. Ecco, così. La poesia qualcuno ha detto. La poesia qualcuno ha detto. Non è certo un gran diletto. Non è certo un gran diletto. Sinistra, sinistra, destra, sinistra. Sinistra. Grazie ragazzi. Avrete notato che ognuno di voi si muove con la sua particolare andatura. Per esempio, Piz se la prende comoda, tanto prima o poi arriverà. Invece Cameron sta pensando, andrà bene, forse sì, ma sì, certo. O forse no, chi lo sa? E il nostro Overstreet è mosso da profonda passione. Lo sappiamo tutti, non è vero? Voglio che troviate la vostra camminata adesso, il vostro modo di correre e passeggiare in ogni direzione, comunque vogliate, che sia fiero o che sia sciocco, sta a voi. E voi con che passo state affrontando questi ultimi giorni dell'anno? Com'è la strada che vi vedete davanti? Piana, in salita, in discesa, illuminata, buia, asfaltata, piena di ostacoli? Però facciamo un passo avanti, proviamo anche a visualizzare noi stessi, il nostro modo di essere, di stare nello spazio. Proviamo a immaginare di avere uno specchio davanti che riflette la nostra immagine mentre stiamo affrontando quello che il cammino della nostra vita, si dice così, ci mette davanti. 800 24 0024. Intanto saluto Alessandro Pellizzari, vice caporedattore di Star Bene, il mensile Mondadori in edicola. Buongiorno. Ciao Nicoletta, tanti auguri. Auguri ancora. Anche a te. Io ti vedo bello. Bello fiero. In carne. Bello fiero. Questa sì. La userò quando mi dicono ti vedo, hai mangiato? Io dico no, sono fiero. Perché c'è il dittongo. Allora, se siete fieri, impettiti, ricurvi, oppure magari avete un passo un po', no? Appesantito, non solo per i pranzi delle festività a cui Alessandro faceva riferimento, ma un po', insomma, vi sentite stanchi. No? Dopo tutto questo anno trascorso, oppure vi state trascinando, ci sono comunque, ci aspettano giorni migliori. Quando si va verso un obiettivo, è molto importante prestare attenzione al cammino. È il cammino che ci insegna sempre la maniera migliore di arrivare, ci arricchisce mentre lo percorriamo. Bisogna saper trarre da quello che siamo abituati a guardare tutti i giorni i segreti che a causa della routine non riusciamo a vedere. Paolo Coelho. Allora, cari amici, apriamoci al racconto e al confronto. 800 24 0024. Abbiamo anche il nostro profilo Facebook, mi raccomando, Laura Vanossi ci tiene molto, per cui cliccate, venite a trovarci, mettete ci piace. Potete scriverci al 349 238 6666. Oggi vi chiedo di trasformarvi in coach di benessere e di inviarci un messaggio ricaricante e positivo per affrontare il cammino di buon passo. In linea con noi abbiamo il dottor Maurizio Corradin, che è un medico esperto di medicina cinese ma anche di posturologia. Buongiorno dottore. Buongiorno a tutti. Dottore, le medicine, le filosofie orientali danno molta importanza alla postura, che non è solo il risultato di una meccanica, ma anche frutto, direi, espressione di quello che si muove dentro di noi a livello di emozione, di pensieri, di ricordi, di aspirazioni, di sogni. È vero? Certamente, assolutamente sì. Non esiste mai una separazione fra l'ambito psichico e l'ambito fisico. Noi utilizziamo questa coppia che chiamiamo yin e yang, che vorrebbe dire maschile e femminile, una coppia in sé intraducibile, proprio per sottolineare come l'aspetto fisico e l'aspetto psicologico siano così legati. Ad esempio, quando prima sentivo quelle frasi di Coelho, vi è un punto sul piede che comanda contemporaneamente la postura, ma anche il modo che abbiamo di vedere noi stessi, specialmente in coloro che ad esempio si vedono male o soffrono di complessi di inferiorità. E questo punto... No, voglio trovarlo subito questo punto, eh. Aspetti che mi tolgo lo stivale, che così se non lo trovo io me lo faccio trovare da Alessandro Pellizzari. Ci racconti bene dove si trova? Allora, a questo punto si trova proprio mezzo dito sotto la punta del malleolo esterno. Oh là là, il malleolo già non sappiamo dove si trova. Dov'è il malleolo? Il malleolo esterno è quella piccola gobba ossea che abbiamo sul piede. Sì. E sulla faccia interna del piede, quello sterone osseo che abbiamo sulla faccia interna del piede. Mm-hmm. Mezzo dito sotto questo punto si trova, sotto il malleolo interno, si trova un punto che si chiama mare dell'illuminazione. No. Che ha contemporaneamente queste due funzioni: da un lato controlla globalmente la postura e dall'altro ci permette di vederci più belli, di vederci più unici, di vederci per quello che siamo, cioè delle opere uniche che in sé sono incomparabili con gli altri. Senta, ma noi individuato questo punto, cosa facciamo? Lo teniamo premuto? Perché io mi faccio costruire, mi metto una pallina dentro la scarpa e ci cammino sempre su, non lo so. Ad esempio si può fare così, si può premerlo, si può massaggiarlo con movimenti orari rapidi per circa un minuto. Mm. E chiaramente non è che risolve il problema, però ci aiuta da un lato ad avere una postura più corretta, dall'altro a dormire meglio, e il sonno è un momento essenziale per la medicina cinese classica nel recupero delle proprie energie fisiche, mentali e spirituali. E dall'altro appunto ci permette di vederci meglio, di vederci per quello che siamo, cioè delle opere uniche. Senta, dottore, lei con questo punto mi ha illuminato, mi piace già molto, io mi sento già diversa. Alessandro? Ah, infatti il dottor Corradini... No, però non l'hai cercato il tuo punto illuminato. Io sono già illuminato. Ah, ho capito. No, il dottor Corradini è stato molto prezioso in questo servizio di Star Bene, perché ci ha... fatto un discorso importante, perché stiamo parlando di medicina, tradizionale cinese, quindi una medicina che ormai è riconosciuta, come sai, ufficialmente anche dalla medicina tradizionale. In Toscana addirittura ci sono degli ambulatori pubblici. Però la cosa importante è che lui ci ha fornito dei farmaci da banco, fra virgolette, perché è vero che per seguire, lei mi corregga se sbaglio, dottor Corradini, è vero che per seguire un percorso completo di salute uno deve affidarsi sempre al medico, ma questo in qualsiasi medicina. Però queste piccole pillole che poi noi abbiamo riportato in parte anche sul giornale, di automassaggio, sono dei piccoli aiuti che possono rivelarsi veramente efficaci. La cosa che ha colpito di più me è tutta la parte che riguarda gli stati d'animo, la mente, quindi non solo acciacchi, doloretti classici, ma anche situazioni mentali ed è bene avere un aiuto così, così semplice ma così allora, efficace. Allora, se volete farvi aiutare, 800 24 00 24, dottor Corradin, quindi noi coccolando il nostro piede possiamo in qualche modo vedere la vita in un modo diverso? Guardi, sicuramente ed aggiungo un dato, è chiaro che è sempre utile rivolgersi a un professionista. Però la responsabilità della nostra vita, il rapporto con noi stessi, il modo che abbiamo di guardarci, di ammirarci e di osservarci, è una responsabilità che spetta a ciascuno di noi. Quindi siamo certamente d'accordo che è utile andare da un medico che si occupa di queste cose, ma il fatto di dedicarci del tempo, specialmente utilizzando dei punti che sono punti di efficacia particolarmente importante, è un modo che abbiamo per riprenderci la responsabilità della nostra vita. Questo punto in particolare che le dicevo, che ha questo bellissimo nome mare dell'illuminazione, è un punto che da cui parte una linea energetica che termina negli occhi e ha il significato di dirci: impara a guardarti. Quando ti guardi allo specchio, cerca di non proiettare le immagini piccole che ciascuno di noi ha di se stesso, ma cerca di guardarti appunto per quello che sei, quindi come un'opera unica. Quindi sicuramente andare da un professionista, ma tutto il tempo che riusciamo a dedicarci noi per noi, certo, è un modo che abbiamo di riprendere in mano la nostra vita. Senta, dottor Corradino, ma dopo questo mare dell'illuminazione ci sono altri punti che noi possiamo stimolare, massaggiare? Certamente ce ne sono di bellissimi. Ce n'è ad esempio uno che è posto fra il primo e il secondo dito, fra il primo e il secondo dito del piede, sì, parte una linea energetica che molto impropriamente viene chiamata linea energetica del fegato. Sì. Subito dietro lo spazio interdigitale, un dito dietro lo spazio interdigitale, fra il primo e il secondo dito, c'è un punto che si chiama grande assalto, che è il terzo punto del meridiano del fegato. Sì. Questo è un punto, uno dei pochi punti che hanno la funzione di abbassare le tensioni, di abbassare la pressione arteriosa, di farci sentire rilassati e di farci sentire in pace con noi stessi. Ma sul piede ce n'è un'infinità di punti, solo che fra i punti più importanti ci sono proprio questi del piede. Questo che le dicevo, il terzo punto del meridiano del fegato, è un altro di questi punti che hanno un impatto globale su tutto l'organismo, sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista psicologico. Quindi, per farle un esempio, dal punto di vista fisico, sì, controlla molto le contratture anche addominali, gli spasmi addominali. Dal punto di vista psicologico è un punto che ha proprio la funzione di abbassare il livello di tensione, di stress, di nervosismo. Non a caso, dottore, ormai è risaputo, provato, che nella pancia risiede il nostro secondo cervello e molto spesso le emozioni, lo stress si traducono a livello di sintomi in dolori addominali e c'è proprio una relazione molto stretta. Alessandro. Noi abbiamo fatto, siccome non è sempre immediato identificare questi punti, no? E invece può essere molto piacevole e costruttivo trasformare il classico massaggio dei piedi che ogni tanto ci è capitato, qualcuno ci fa o lo facciamo noi, in una qualcosa di più mirato, e quindi insistere magari su un punto che abbiamo imparato dalla medicina cinese a utilizzare come, dicevo, fra virgolette, farmaco da banco, piccolo ausilio magari per la digestione difficile oppure per gli stati d'ansia. Abbiamo creato con l'aiuto del dottore questa piccola mappa che trovate sul giornale, però penso che questi punti siano abbastanza facili da trovare su internet, eccetera. Il problema è, ripeto, che piccole cose si possono fare, degli automassaggi che sono dei piccoli aiuti. Poi l'ideale è passare da un professionista il quale ti può addestrare a farlo al meglio. Dottore, approfitterei ancora della sua presenza tra noi per parlare anche del tipo di camminata, no? Alcuni tipi di camminata sono diventati un po' il tratto caratteristico di una tipologia. Pensa a John Wayne, no? Quella di John Wayne, certo, ha identificato per generazioni di ragazzini il modo di camminare dell'uomo forte. Quella di Charlot del sognatore che volteggia quasi come se danzasse in una dimensione sospesa tra realtà e sogno. Quella di Marilyn, così seduttiva e femminile. Noi facciamo molta fatica naturalmente ad avere consapevolezza del nostro modo di camminare. Sono gli altri che possono raccontare qualcosa della nostra camminata, perché no, non ci muoviamo con uno specchio accanto. Però se abbiamo un amico che ci racconta, ci descrive nell'atto di camminare, forse noi riusciamo a raccogliere delle informazioni importanti su di noi. E riferendo a lei, che è anche posturologo, forse insomma, no? Riusciamo a capire ancora qualcosa di più. Che cosa ci dice il nostro modo di camminare o il modo di camminare della persona a cui vogliamo bene, che abbiamo accanto? Guardi, qui si entra proprio in piena medicina cinese classica, nel senso che esistono cinque tipi costituzionali diversi, ciascuno dei quali ha un modo di camminare diverso. Quindi c'è l'individuo nervoso che cammina molto più a scatti, c'è l'individuo che chiamiamo fuoco che ha una camminata molto elegante, c'è l'individuo più tozzo che tende a ingrassare che chiamiamo terra, che quando lo senti sembra un elefante che sta camminando, c'è l'individuo che chiamiamo metallo, che è un individuo molto longilineo, astenico, di colorito pallido, che quando cammina tende a sbattere in casa addosso ai mobili perché sì, è un po' dinoccolato nel modo di camminare e via dicendo. Ma quindi questa è proprio quello una caratteristica. Che ha descritto sinora che mi piace di più è il fuoco, allora. Sì, il camminare del fuoco è questo incedere elegante camminando quasi sulle punte. Rimane il fatto che anche sul piede ci sono dei punti che sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista psicologico possono aiutare a modificare il proprio modo di camminare. Ce ne sono almeno due che vorrei ricordare. Dai. Il primo si trova sotto la punta del malleolo, questa volta esterno, sì, che si chiama vaso dell'ora nona, che è un punto che comanda tutto il nostro modo di camminare, quindi la leggerezza nel modo di camminare. E poi ce n'è un altro bellissimo che si chiama barriera della luce, che è posto circa 6 dita sopra il malleolo esterno, sì, proprio al centro della gamba, sì, che è il modo che abbiamo di affrontare la vita, di camminare nella vita, sia dal punto di vista fisico, cioè dove andiamo, sia dal punto di vista psicologico, perché spesso creiamo dei meccanismi nella nostra vita che quasi ci impediscono di andare. E questi punti ci possono aiutare sia nella leggerezza del cammino, sia nell'andare verso uno scopo, sia dal punto di vista fisico, ripeto, che psicologico. Io voglio dare i miei piedi, dottore. Per togliere quelle che vengono definite le palle ai piedi, che tante volte sono, certo, le nostre paure, no? Certo. Le nostre insicurezze. Abbiamo, certo, Tiziana che ci chiama da Brescia, 800 24 00 24, perché ragazzi noi siamo in diretta qua per voi, fatevi sentire. Tiziana, buongiorno. Buongiorno, io vi ringrazio per questa trasmissione molto interessante. Sono a casa dal lavoro, per cui ne ho approfittato subito. Ho cercato di appuntarmi il più possibile, velocemente. Può riascoltarci, Tiziana, così faccio i compiti per bene, perché sennò Laura mi dice ti sei dimenticata di dire, ma io ogni tanto mi dimentico. Lei può riascoltarci andando sul nostro sito e se ha bisogno di consultare i nostri esperti può scriverci, certo. Poi con l'anno nuovo metteremo proprio gli esperti a vostra disposizione anche dopo la trasmissione, ma intanto in carne e ossa, anzi solo al telefono, al dottor Corradin, a cui può chiedere un'indicazione, un aiuto, un suggerimento. Bene, grazie. Volevo chiedere al medico, io soffro purtroppo molto spesso di mal di testa dovuto a sinusite. Sì. Mi curo, è chiaro, però non ci sono rimedi miracolistici. Mi capita anche di svegliarmi di notte con mal di testa se non ho la testa ben calda, sì, e spesso al mattino con un cerchio alla testa dovuto, ripeto, a questa sinusite. Sì. Quale punto, se c'è, se è possibile, oltre ai medicinali classici, io potrei sollecitare nel mio corpo per alleviare questo problema? Che è un problema molto diffuso. Dottor Corradin, sinusite, sì, guarda, il piede, allora, ci viene in soccorso. Sì, allora come le dicevo, quando si tratta di problemi tipo il mal di testa, allora bisogna fermarsi un istante e osservare le cose con un po' di più attenzione. In ogni caso, come dicevo, questi due punti posti nella parte interna e nella parte esterna del malleolo, da, sì, questi due punti parte una linea che termina nel canto interno degli occhi, sì, e lì entra all'interno del cervello. Quindi il massaggio di questi due punti, ripeto, posti appena sotto il malleolo interno e appena all'esterno, sotto il malleolo esterno, sì, possono molto essere utili in questi casi. Voglio però ricordare alla nostra ascoltatrice che quando ci sono dei dolori che compaiono, che presenti specialmente al mattino, perché la sinusite c'è tutto il giorno, ma poi magari un soggetto ha il dolore particolarmente al mattino, sì, bisogna controllare molto che durante la notte non vi sia una contrattura della muscolatura della bocca. Sì. Perché dà proprio dei dolori tipici che compaiono alla fine della notte e poi nelle prime ore del mattino. In questo caso, se è così, l'utilizzo, sì, di alcune piante medicinali tipo la melissa, la passiflora e via dicendo potrebbero essere molto utili accanto ai punti che ho accennato prima. Magnifico. Volevo chiedere, come si fa il massaggio praticamente? Bisogna premere molto? Bisogna farlo? No, basta fare massaggi in rotazione oraria rapida per circa un minuto, oppure si possono fare pressioni e rilasciamenti proprio sul punto preso in considerazione. E quante volte si fa al giorno? Ci sono momenti particolari? Si possono fare 2 o 3 volte. Poi tanto è comodissimo. Infatti. Perché tranne quando, come in questo caso, la persona si indossano gli stivali, ce li abbiamo subito lì, i malleoli. Certo. Vero, dottore? Sì, sicuramente sì, poi ripeto, quando c'è una patologia più importante, allora bisognerebbe andare da un professionista che veda esattamente qual è la turba energetica, ma questo comunque che ho suggerito potrebbe veramente aiutare. Io mi chiedo, se sono così importanti, perché molti modi di dire fanno riferimento ai piedi in accezione negativa? Ad esempio, Alessandro, si dice ragionare coi piedi, trattare come una pezza da piedi, lavori fatti con i piedi, farsi mettere i piedi in testa. A proposito, su questa frase, farsi mettere i piedi in testa, qualche cosa mi suona familiare. In linea con noi abbiamo Alessandra Faiella. Ciao Alessandra. Buongiorno a tutti, eccomi qui, l'esperta dei piedi in testa. Scrittrice, autrice, attrice, comica, fermami, quante cose devo dire? Quante cose, eh? Fermati. Toglimi quel piede dalla testa, per favore. Sì, esatto, è il titolo del mio nuovo libro, Toglimi quel piede dalla testa per favore, parlate di piedi e quindi i piedi sono entrati assolutamente in, come si dice, in media stress, si dice così, insomma, ma sono sì, diventati, ma diciamo così, ma sì. Comunque è un libro che non parla di piedi, però parla di come farsi togliere i piedi dalla testa senza usare le mani, che è molto importante nella vita di oggi, dove siamo tentati di rispondere all'aggressività altrui con altrettanta aggressività facendo dei danni. Ecco, diciamo che nel mio libro cerco così di consigliare le persone perché non arrivino a questi estremi. Avete qualcuno che vi mette i piedi in testa? Restate con noi, per restare anche Alessandra Faiella. Il dottor Corradin scappa, ma spero verrà presto a trovarci. Intanto io vado di Malleolo, i punti, i due punti, che secondo me mi fanno chiudere l'anno benissimo. Dottore, grazie per essere stato con noi. Di nulla. Arrivederci. Buonissima giornata. Noi adesso andiamo a sentire i mercati. Abbiamo Carmelo Lauricella in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi, ve la cito sempre, in redazione preziosissima. Alessandra resta con noi, piedi e dintorni, parleremo anche di assertività, ma se avete qualche dolorino, lamentatevi pure con noi, 800 24 0024. Ricordatevi il nostro consiglio di lettura di oggi, partecipate, inviateci il messaggio ricaricante positivo per affrontare questa ultima settimana dell'anno di buon passo. Il messaggio che sceglieremo insieme ad Alessandro Pellizzari, lo nomino giudice di questa trasmissione, riceverà a casa proprio il libro di Alessandra Faiella, Toglimi quel piede dalla testa per favore, per vivere il 2011 con assertività, grazie alla collaborazione con IBS. Mercati, meteo, poi di nuovo qui. Mi fa cenno di rientrare, Alessandra, invece io canterei Strada facendo vedrai? Sì, io strada, perché la strada si fa coi piedi ancora. Brava, una volta. Brava, vedi come siamo. Come siamo veloci. Veloci. Senti, ma la strada si fa con i piedi, ma io come faccio a capire di avere che qualcuno mi sta mettendo un piede sulla testa? Beh, ci sono dei test che si possono fare per vedere testa se e testa. Si è aggressivi, passivi o assertivi, perché l'assertività, ricordiamolo, è la via di mezzo, è il giusto baricentro tra il senso di umiliazione e l'aggressività. Cioè essere aggressivi non significa essere assertivi, cioè sapersi affermare con allora, decisione, guarda, io e gentilezza. Allora, io qua ho una cavia. No? Sì. Alessandro, dai, si offre candidato, vediamo. Cosa devo fare? Tu devi rispondere sinceramente, cosa che dovrebbero fare anche i nostri amici da casa, certo, e chiamarci certo. All'800 24 00 24 ci facciamo guidare, non so se siamo in buone mani, ma ci facciamo stai guidare, stai scommettendo grosso, da Alessandra Faiella. Allora Alessandra, siamo pronti. Allora, test: sei assertivo, passivo o aggressivo? In quale personaggio cinematografico ti identifichi di più? A. Hugh Grant in Notting Hill, con la simpatia e la diplomazia, ottiene ciò che vuole. B. Fantozzi in Fantozzi il ritorno, nemmeno lui sa quello che vuole. C. Rambo in Rambo 2 la vendetta. Rambo! Un momento, non mettermi i piedi in testa. Rambo ottiene sempre ciò che vuole a colpi di Kalashnikov. Qui quindi ci risponde. Però aspetta, segnatelo. Rambo lo segniamo avanti. Noi, ma voi segnatevi da casa voi quella a cui avete risposto, la vostra Hugh risposta. Grant, io avrei Fantozzi. Detto Hugh Grant. Beh, ma tu sei Hugh Grant, al femminile naturalmente. Così, poi, che è un gran figo, come si dice, si può dire? Era si un complimento, infatti. Ed è nato tra l'altro il 9 settembre, che è il mio compleanno, ma questo è una digressione. È un dettaglio, inutile. Però gli uomini della Vergine mi dicono che siano un po' difficili. Ma le donne no. Vabbè, ma lui è Hugh, io mica sposo te, scusami. Che c'entra, vabbè, ma Hugh comunque, è difficile. Va bene, noi qua abbiamo... Non divaghiamo. No. Allora, qua noi abbiamo Rambo. Non so se con lui un, si. Con un cotè Fantozzi ogni tanto. Poi, seconda domanda. Di Fantozzi. Allora, uscito dal negozio, ti accorgi di aver ricevuto un resto inferiore al dovuto. A. Torni indietro e lo fai presente al negoziante. B. Torni indietro e ti scusi col negoziante. C. Torni indietro e rompi una rotula al negoziante. Che così poi chiama essere benessere. Esatto. Anche se sono Rambo, non gli rompo una rotola, ma glielo restituisco. Torno indietro e glielo Bravo. Restituisco. Quindi A. Quindi A. Perfetto. Scrivete anche voi a casa. Il cameriere ci sta mettendo 20 minuti per portarti un caffè al tavolo. A. Lo chiami ed educatamente lo solleciti a servirti. B. Picchi con rabbia un pugno sul tavolo, ma non dici niente. C. Picchi con rabbia il cameriere. E qui ma non si può fare, ma picchierei con rabbia il cameriere. Vedi, mi sa che mi sa non che lo invito più C. però C. Siamo su C. Ah, ma è importante conoscersi per poi migliorarsi. Però non so se la lettura del libro di Alessandra Faiella basterà al nostro Alessandro Pellizzari, che da queste tre risposte, Alessandra, come è emerso? Da queste risposte è messo un po' sul versante C, sul versante aggressivo, però io gli farei l'ultima. Dai. Il tuo capo ti accusa ingiustamente di uno sbaglio che non hai fatto. A. Ti fai rispettare facendoglielo presente. B. Ti fai piccolo e ti scusi. C. Ti fai sua moglie. Ecco, vediamo se anche qui hai risposto C. No. Perché se... No. Rispondo no. A. A. Bene, compra allora di scena. Questa è la mia realtà. Che Alessandro è un assertivo, cioè che sa difendere le sue ragioni, con qualche punta di aggressività, cioè forse cede un po' di più verso un surplus di assertività, è più aggressivo che passivo, ma del resto tutti noi non siamo perfettamente equilibrati tra questi due poli. Beh, parlate per voi, parlate per voi, come è arrivata si dice. Comunque è vero, vero assolutamente, il lavoro più grosso che devo fare è proprio quello di limare l'aggressività, che è una delle mie caratteristiche, per mantenerla nella terra di mezzo, che ecco, è infatti, la via allora, più giusta. A te è dedicata la seconda parte del libro, perché la prima parte del libro si intitola come camminare a testa alta senza sbatterla sul soffitto, quindi come diciamo farsi rispettare. La seconda parte invece si chiama come diventare simpatico anche se sei nato odioso, e questa diciamo per mitigare un po' l'aggressività di certe persone che tendono un po' troppo a farsi rispettare, tendendo un pochino a prevaricare, quindi c'è un po' l'uno e un po' l'altro. È un libro serio, però la chiave è sempre ironica, perché sennò che ci sto a fare? Giusto? Allora, voi Giusto. Potete ricevere a casa il libro di Alessandra Faiella e quindi diventare campioni di assertività. Ma poi se sono tutti assertivi, con chi litighiamo, Alessandra? Vabbè, beh, comunque. Guarda, litigare fa male, litigare fa male al cuore, e voi siete un programma che si occupa di benessere, quindi fa stressare, fa male al fegato, fa male allo stomaco, quindi secondo me litigare non è la risoluzione migliore quando si deve affrontare un conflitto. Brava. Diciamo che cerchiamo di dare dei consigli anche su come gestire la propria rabbia e gestire la rabbia altrui. Poi qualche volta una sana litigata ci sta anche bene, l'importante è non ricorrere al litigio ogni volta, anche perché se noi difendiamo le nostre ragioni, gli altri fanno lo stesso. Quindi mettersi nei panni degli altri e cercare di guardare le loro motivazioni può aiutarci ad avere... Ci toglie dai piedi un sacco di problemi, ritornando ai nostri piedi. Ritornando ai piedi. Intanto, per avere a casa Toglimi quel piede dalla testa, per favore, di Alessandra Faiella, grazie alla collaborazione con IBS, dovete mandarmi un SMS che contenga una ricetta un po' ricaricante, positiva, qualche cosa che rimandi all'assertività. Scriveteci al 349-238-6666. Vuoi lasciarci con un altro consiglio? Ma visto che parli di una frase che ci carichi di assertività, la frase che chiude il libro è una frase di Benjamin Spock, noto psicologo, psicanalista, si è occupato di bambini e non solo, che dice questo: sfidati di te stesso, ne sai più di quanto pensi. Mi piace. Questa... Ti è piaciuta? Alessandra, mi piace. Grazie ad Alessandra Faiella, grazie, un abbraccio. Grazie a voi, grazie Nico. Grazie a te. Abbiamo Domenico che ci chiama dalla provincia di Caserta. Buongiorno Domenico. Buongiorno a voi. Lei ha fatto anche con noi il test dell'assertività, come si era messo? Come si è piazzato? No, quello non l'ho fatto. Perché? Perché ero in viaggio e mi sono collegato forse quando già l'avevate fatto. Ah, mamma mia. Allora, Domenico, non parliamo di assertività, immagino che parleremo dei suoi piedi. Esatto, sì, ecco. Parliamo dei miei piedi. È in cammino. Allora, che succede? Ma forse sono abbastanza provati perché sono un podista, però stranamente ho un dolore al piede che si manifesta non quando corro, bensì quando cammino. Sulla fascia esterna della pianta, in particolare al piede sinistro. Senta Domenico, sa che noi abbiamo proprio in linea un medico che fa per lei, il dottor Luigi Torchio, medico esperto di medicina naturale. Dottor Torchio, buongiorno. Non è ancora arrivato, che già lo metto a lavorare. Buongiorno. Ha sentito il nostro amico Domenico che ci dà lo spunto per parlare del dolore, quando viene in movimento e quando invece appare senza, quando stiamo fermi. Domenico ci racconta questo. Direi che i problemi dei piedi vanno proprio riconosciuti attraverso il dolore, che può essere un sintomo di cose anche abbastanza importanti. Il suo potrebbe essere un caso particolare, essendo un podista e quindi una persona che utilizza in maniera direi un po' abnorme la pianta del piede e il camminamento. Ma un qualsiasi minimo difetto di appoggio del piede può dare tutta una serie di disturbi sia allo sportivo che anche alla persona sedentaria. Sì. E può anche, tra l'altro, dare disturbi lontani rispetto alla pianta del piede, e cioè una postura scorretta può dare disturbi per esempio alle cartilagini del ginocchio piuttosto che non alla schiena. Sì. Gli appoggi sbagliati in tenera età con la crescita possono dare origine a scoliosi, quindi sicuramente lui dovrà valutare non soltanto la tecnica del camminamento che usa negli allenamenti, ma soprattutto valutare con attenzione la pianta del piede per poter adottare un plantare e fare in modo che in questa usura particolare del podismo lui possa abbia gli appoggi giusti. Allora io vi invito adesso a osservare la suola delle vostre scarpe, guardatela, naturalmente se non siete in macchina osservatela bene, chiamateci 800 24 00 24, parleremo proprio della suola delle vostre scarpe tra poco. 349-238-6666, ricordatevi, è il messaggio positivo per il libro di oggi in collaborazione con IBS. Andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade e poi torniamo di nuovo insieme tra poco. Allora, dottor Torchio, abbiamo guardato le suole delle nostre scarpe, che cosa ci raccontano? Eccolo, con un po' di fatica anche Alessandro Pellizzari sta cercando di accavallare la sua gamba. Però sì, interessante guardare la scarpa, perché è sicuramente di facile analisi. E l'appoggio dovrebbe essere adeguato e quindi il consumo delle scarpe dovrebbe essere uniforme. Sì. Se invece notiamo che le scarpe sono più consumate sui lati, o peggio ancora, se soltanto una delle due è più consumata su un lato, sull'interno, Allora in quel caso dobbiamo valutare proprio la nostra postura, l'appoggio del piede, proprio per evitare questi risultati negativi a distanza che possono riguardare tutta la colonna, addirittura le cartilagini delle ginocchia, che sappiamo quando si consumano poi danno origine a problemi di difficile ripristino, che diventano poi cronici, quindi artrosi con consumo cartilagineo, sono frequentissime per i difetti posturali. Come forse accennato prima, anche se io mi sono sintonizzato un po' in ritardo, i difetti posturali possono essere ereditari, ma a volte anche essere il riflesso di alcuni nostri atteggiamenti. Sì. Quindi a volte la timidezza fa poggiare di più la parte esterna del piede, quasi come se camminassimo su un terreno cedevole, fossimo sempre in una situazione di maggiore attenzione psicologica. E quindi direi che tutte queste valutazioni possono essere fatte non solo sul piano fisico, ma anche su quello del carattere. Ed è estremamente anche interessante valutare poi il piede, nel senso che tutte le callosità che vengono poi trattate in maniera fisica, cioè eliminate, tagliate, grattate nei modi più disparati, sono invece proprio un campanello d'allarme preciso di questi errori posturali o di certe sofferenze degli organi. Quindi dovremmo guardare proprio le nostre scarpe e anche la pianta dei piedi. Dottore, molti messaggi arrivano al 349-238-6666, sono soprattutto le ascoltatrici, forse per i balli, no? Si è ballato, si sono portati dei tacchi vertiginosi in questi giorni di festa, il classico dolore ai piedi, che è un dolore terribile. Avete mai provato ad avere un paio di scarpe nuove o strette? Ti batte proprio in testa. Perché, dottor Torchio, è così fastidioso il dolore ai piedi? È un dolore che diventa insopportabile, parliamo di dolore che... No, su una persona sana, naturalmente, poi per carità, io quando pronuncio questa parola penso sempre alle persone che si confrontano con il dolore cronico e quindi sembra... Intanto il dolore ai piedi è espressione molte volte di eccessiva stanchezza, quindi quando compare il dolore ai piedi a volte può essere una tallonite, proprio espressione di un periodo nel quale siamo troppo stressati ed è un segnale del corpo che dobbiamo rallentare e riposarci. Sì. E questo è fondamentale. Molte volte quando questo dolore è legato a problemi anche di schiena, in maniera diretta o in maniera indiretta, ovviamente comporta una patologia più complicata e allora il dolore può diventare insopportabile proprio perché coinvolge anche la muscolatura delle gambe e della schiena. Oppure a volte si accompagna o viene aggravato da problemi circolatori, visto che ci sono molte ascoltatrici, non soltanto durante il ciclo, ma semplicemente col periodo caldo, possono accentuarsi ristagni venosi e linfatici che ovviamente danno origine ad un dolore che si può sommare a quelli di origine ortopedica e dovuti al cattivo appoggio. Quindi... in questo caso per la donna soprattutto è bene valutare anche l'aspetto circolatorio e curare molto l'aspetto circolatorio. Abbiamo una ricettina, un consiglio proprio di pronto utilizzo per queste giornate? Fuori fa freddo, comunque si cammina molto, si vanno a trovare parenti, alla sera si fa tardi. Dottore, non ci dica di restare a casa. Intanto una cosa importante è fare dei pediluvi con acqua e molto sale, per avere un effetto di drenaggio immediato. Il sale per osmosi attira fuori i liquidi, quindi fa sgonfiare, non avendo a disposizione il mare d'inverno. Sì. Un'altra cosa molto importante, visto che io insegno anche yoga, è una facilissima posizione, che è quella di appoggiare il bacino su un cuscino, coricati sul pavimento o sul letto, e appoggiare le gambe al muro, quindi talloni appoggiati al muro, con il bacino leggermente sollevato dal pavimento con un cuscino. Sì. Questa facilissima posizione, che può essere fatta anche a letto, quindi appoggiando le natiche sul cuscino, sulla testiera del letto, si può fare anche dopo i pasti e permette un drenaggio eccezionale. È una posizione anche di grande rilassamento, può essere mantenuta anche più di 10 minuti e permette un drenaggio regolare, fisiologico, venoso e linfatico che migliora anche i dolori di tipo ortopedico, perché tutti i ristagni di tossine accentuano anche i dolori di tipo ortopedico. Abbiamo Nicoletta che ci chiama dalla provincia di Vicenza. Nicoletta, buongiorno. Buongiorno. E io chiamavo perché sentivo che stavate parlando del consumo delle suole delle scarpe. Eh sì, Nicoletta, perché sono un po' la cartina tornasole del nostro modo di camminare, del nostro modo di stare proprio. Infatti, io ho notato che consumo le scarpe in maniera diversa alla destra rispetto alla sinistra. Mm. In particolare il tacco della scarpa destra lo consumo di più sulla parte esterna. Sì. E in più ho notato ultimamente che si sta accennando la luce valgo sul piede destro. Sì. Volevo capire se queste due cose sono collegate. Tra di loro. Grazie sì. Nicoletta. Dottor Torchio. Grazie a voi. Sì, la luce valgo intanto è di origine soprattutto ereditaria, però può essere peggiorato da una cattiva postura. Quindi sicuramente in questo caso, se questa signora non porta sempre i tacchi e porta delle scarpe un po' più comode, sarebbe molto importante mettere un plantare, perché questo appoggio esterno di un piede solo, oltre a creare un peggioramento di questo alluce valgo che sicuramente è ereditario, può portare poi problemi alle ginocchia. Soprattutto quindi bisogna affidarsi a dei professionisti, il plantare va fatto rigorosamente su misura, per vero dottore? Esattamente, per dare un po' di ginnastica posturale, nel senso di avere la consapevolezza di come si appoggia il piede, per correggere con degli esercizi posturali appunto il camminamento, la stazione eretta, in modo da insomma prevenire tutti i vari acciacchi che con gli anni tenderebbero poi a crearsi sulla base di questo piccolo difetto. E poi noi faremo tesoro del suo consiglio rubato tra virgolette allo yoga, e quindi coricati, Alessandro, anche tu lo farai, coricati, il bacino discorso... un po' sollevato. Sicuramente, il discorso però è interessante anche per i maschi, perché mi fa venire in mente le gomme dell'auto, perché il guardare le suole eccetera, noi maschi che siamo così attenti al cambio delle gomme eccetera, dovremmo capire meglio il discorso anche delle scarpe, guardiamocele. Dottor Torchio, buongiorno, auguri! Grazie, auguri a tutti i radioascoltatori. E con i nostri piedi camminiamo e andiamo alle terme, perché ci aspetta il dottor Fausto Bonsignori, specialista di idrologia medica e clinica termale e docente all'Università di Pisa e di Milano. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno. Buongiorno, intanto auguri, iniziamo a portarci avanti. Grazie, buon anno. Dottore, noi abbiamo due minuti per raccontare, per portare i nostri piedi alle terme. Molti trattamenti termali sono proprio indicati e fatti proprio per i nostri piedi, e il benessere che troviamo lì localizzato poi si dirama, si espande a tutto il nostro organismo. Dottore, dai fanghi ai pediluvi. Certo, alle terme possiamo far star bene i nostri piedi, possiamo farli stare molto bene. Pensate ai fanghi, pensate alle acque. I trattamenti termali sono molti, addirittura molti sono specifici. Ci sono i pediluvi, cioè si immergono i piedi nell'acqua termale con degli idromassaggi. Oppure ci sono i fanghi che vengono applicati localmente, che danno un senso di grande beneficio, un'azione antinfiammatoria, antidolorifica. Per il piede dolente, per il piede stanco, per il piede artrosico, sono veramente dei toccasana. Un altro tipo di trattamento è il cosiddetto percorso acquatico, cioè sì. Si cammina in un percorso con un'altezza dell'acqua di circa 40-50 centimetri, in un percorso a diverse temperature, una temperatura più calda, una temperatura più fredda, in acqua termale ovviamente, dove il pavimento è costituito da dei ciottolati molto, molto dolci, molto levigati, che consentono appunto una spremitura della spugna del piede e quindi migliorare anche la componente circolatoria, che è così importante, come diceva anche prima il dottor Torchio, per quanto riguarda anche un beneficio immediato e anche successivo ai dolori dei nostri piedi. Le terme sono veramente un luogo ideale. I fanghi hanno un'azione ormai conosciuta, scientificamente validata con più lavori, e hanno questa straordinaria capacità di agire sia localmente, migliorando il dolore e l'infiammazione dei nostri piedi, ma danno anche dei benefici più generali. Insomma, il benessere cammina, anche il benessere cammina, dai piedi sale alle terme. Dottore, grazie per essere stato con noi, ci sentiremo presto. Grazie a tutti voi e buon anno di nuovo. Grazie, grazie. Invece ad Alessandro Pellizzari chiedo di leggere. Abbiamo fatto un po' fatica a scegliere, perché voi scrivete sempre dei messaggi che mi piacciono molto, e allora che noi metteremo su Facebook, e potete votare ancora su Facebook quello che vi carica di più, perché voi siete i coach della trasmissione Essere Benessere. Alessandro, noi abbiamo scelto un messaggio di Enrico da Bari, sì? che recita: ti darò tutta la ragione che vuoi e sarò io colui che ti farà ragionare. Ti darò tutto me stesso. Bello. Bello, anche un po' con la voce di Alberto Lupo, letto da Alessandro Pellizzari. Leggetevi il servizio, tutto centrato sui piedi. Noi abbiamo un po' divagato un po'. Sei automassaggi di benessere, da fare subito. Toglimi quel piede dalla testa, per favore, in collaborazione con IBS per Enrico. I vostri messaggi sul nostro profilo Facebook. Buona giornata, buon cammino. Noi ci troviamo domani.